Bordo Campo di Dario Ricci. Siamo allo stallo assoluto, così il presidente della Federcalcio Abete, Giancarlo Abete, ha commentato pochi giorni fa la situazione della legge sugli stadi italiani, che dovrebbe essere il primo importante essenziale passo per il rinnovamento del parco infrastrutturale a disposizione del calcio italiano. E proprio di stadi nostrani parliamo oggi, approfondendo i temi di un corso di management promosso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, con il patrocinio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega di Serie B, della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti, e con la partnership dell'Istituto per il Credito Sportivo. Stadium Management si chiama questo master, e il curatore scientifico è Michele Uva, responsabile del Centro Studi, Sviluppo e Iniziative Speciali della Federcalcio, e che è nostro ospite oggi a Bordo Campo. Benvenuto, dottor Uva. Buongiorno a tutti. Allora, dottor Uva, parole, grido d'allarme, quello lanciato dal presidente federale Giancarlo Abete in merito all'iter tortuoso della legge sugli stadi. A che punto siamo, e c'è speranza di vederla prima o poi questa legge? Le parole del presidente Abete penso che siano abbastanza chiare. Stiamo facendo tutti gli sforzi per supportare tutte le forze politiche che hanno chiesto una mano tecnica nella redazione anche di alcuni passaggi della legge. Noi pensiamo, e questo è anche un mio pensiero personale, che l'impiantistica sportiva in Italia sia un diritto di un territorio, diritto di una città, diritto delle persone che vivono in un posto, perché intorno allo sport penso si possa sviluppare non solo un tessuto economico, e ci sono dati internazionali che lo dimostrano, ma anche uno sviluppo sociale importante, e da sempre l'impianto sportivo è stato centrale nella vita di ogni città, di ogni territorio. Purtroppo i nostri impianti oggi, quelli del calcio professionistico, hanno una media di 65 anni, e come potete immaginare, ecco, 65 anni fa si costruivano con altri criteri. C'è anche chi ha ipotizzato che in realtà questa legge sugli stadi nasconda un po' un baco, no? Tra le pieghe di questa legge è stato anche inserito un capitolato relativo alla divisione degli introiti dei diritti TV per quanto riguarda le serie minori, che sarebbe penalizzante per Lega Pro e calcio dilettantistico. Da questo punto di vista è un nodo che è stato sciolto, e in che modo? Beh, tutto è nelle mani della Commissione Cultura della Camera, quindi la Federazione non interviene su questo. Oltretutto una suddivisione di un 10% dei diritti televisivi che sono prodotti dalla Serie A, quindi noi non, come Federazione non entriamo, abbiamo solo creato questo corso di stadium management proprio per cercare di attivare dei processi virtuosi, sapendo che la politica sugli impianti sportivi deve partire per salvare non solo il calcio, ma le difficoltà ci sono anche negli altri sport, il basket, la pallavolo, anche perché la nuova legge è rivolta non solo agli impianti di calcio, ma anche ai palazzetti dello sport, quindi vuol dire una legge quadro sull'impiantistica sportiva. Questa è determinante per la sostenibilità economica delle società, dello sport, e per creare nuovi luoghi di aggregazione. Ecco, impianti che come vediamo all'estero, dalla Spagna all'Inghilterra, per non parlare degli Stati Uniti, sono in grado là di vivere 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, quasi in modo indipendente dall'avvenimento sportivo. È questo anche l'obiettivo che si può raggiungere qui in Italia, e se sì, attraverso quali punti focali? Nella realtà il modello italiano non esiste. Abbiamo studiato, e lo stiamo facendo anche con questo corso, io personalmente seguo la parte degli impianti da più di 5 anni professionalmente, nelle altre nazioni l'hanno sviluppato in modo straordinario, parlo anche della Germania, che probabilmente oggi è il paese all'avanguardia per gli impianti sportivi e per la crescita anche economica e sociale del proprio calcio. Sicuramente il modello italiano dovrà essere adattato per ogni territorio. Quello che si sviluppa a Udine, quello che si sviluppa a Torino non può essere lo stesso tipo di impianto che si sviluppa a Lecce o a Palermo o a Catania. Il modello deve essere solo uno, sostenibile sia nella costruzione e sia economicamente parlando, sia da un punto di vista di impatto ambientale, e deve essere sostenibile soprattutto nella gestione. Un impianto, prima di essere costruito, bisogna controllare che dopo porti degli utili alle società e al territorio dove opera e non porti solo dei debiti, cosa che è successo negli ultimi 30 anni sui nuovi impianti che sono sorti in Italia. Intanto nel nostro calcio arrivano gli americani, cioè Thomas Di Benedetto a un passo dalla presidenza della Roma, e scoppia la prima polemica proprio, guarda un po', sull'impianto da utilizzare, no? Di Benedetto che attacca l'Olimpico ritenendolo inadatto alle esigenze della Roma del futuro, e il presidente del CONI Petrucci che risponde piccato. Per quanto mi riguarda non è partito con il piede giusto, perché la prima cosa che ha detto riguarda lo stadio olimpico. Io voglio dire a chi investe nel calcio, ma possono anche non venire allo stadio olimpico, sono loro che ce lo chiedono, però si rispetti lo stadio olimpico, la storia dello stadio olimpico, il fatto che loro ci richiedono e noi gli diamo lo stadio per giocare. Per cui ancora non è presidente della Roma, se già parte con questo presupposto, certamente da parte nostra non c'è questo grande entusiasmo. Ecco, dottor Uva, alla luce proprio dell'argomento che stiamo affrontando, come ha visto questa polemica e alla fine chi ha ragione, lo zio d'America o il numero uno del Comitato Olimpico? Ma nella realtà hanno ragione tutti e due, ma non voglio fare il politico perché anche non lo sono. Ha ragione Di Benedetto a dire che nei progetti, in una programmazione a medio-lungo termine, la Roma necessiterà di un impianto, perché abbiamo visto nei casi internazionali un Arsenal ha aumentato i propri ricavi di 75 milioni di euro col nuovo stadio, ma anche l'Eintracht Francoforte in Germania, per non parlare di casi sempre eclatanti come quelli inglesi, da 28 milioni è arrivato a fatturare 65 milioni, e il raddoppio del fatturato è dovuto al nuovo stadio, alla Commerzbank Arena. Quindi capisco Di Benedetto, capisco che deve inserire nel suo progetto un nuovo stadio che porti nuove risorse alla Roma, è un grande investimento, quindi vediamolo anche come un grande sforzo economico che Di Benedetto dovrà fare indipendentemente dal riassetto della squadra, e quello si legge più sui giornali, io non ne sono al corrente, ma d'altra parte ha ragione anche Petrucci quando dice che l'Olimpico è uno degli stadi più belli d'Italia, è indubbiamente è stato ristrutturato anche prima della finale della Champions League, è l'unico stadio a 5 stelle che abbiamo in Italia, e quindi mi sembra anche giusto che il CONI difenda il proprio impianto. Però penso che qualsiasi società da qui nei prossimi 8 anni ha diritto ad avere un nuovo stadio che porti risorse e non porti invece solo esclusivamente dei costi. Quindi insomma non tutti i mali vengono dalla pista d'atletica. Intanto però c'è anche chi, come la Juventus, pur senza la legge sugli stadi, il suo stadio di proprietà sta riuscendo a costruirselo. Ecco, come hanno fatto i bianconeri? Un miracolo dal punto di vista progettuale, manageriale, oppure? Beh, è un misto, uno di grande capacità manageriale di Blanca e della proprietà, secondo la potenzialità e la potenza economica della Juventus, perché ovviamente per ottenere finanziamenti in questo momento c'è bisogno di proprietà stabili. Ci hanno creduto, sono andati fino in fondo, hanno fatto un progetto sostenibile, anzi Blank è intervenuto nel corso della Federcalcio sul Stadium Management, che proseguirà anche a ottobre e novembre, anzi a ottobre in anteprima dico proprio a voi che sarà fatto nel nuovo stadio della Juventus, proprio perché Blanca ha illustrato tutto il processo che hanno svolto con grande perizia, con grandi investimenti, con grande capacità, e penso che la Juventus il giorno in cui inaugurerà il nuovo stadio aprirà, spero, una strada importante per il calcio italiano. Sono stati veramente, veramente bravi. Dottor Uva, le chiedo ancora una cosa che fa parte del dibattito di questi giorni, anche relativo agli impianti europei. In Inghilterra sta tornando di moda il discorso dei posti in piedi, no? Che erano stati aboliti negli stadi, soprattutto dopo la tragedia di Sheffield, e mentre invece ora vengono richiesti nuovamente, soprattutto per chi non può permettersi il costo di un biglietto biglietto del posto a sedere. Ecco, ritiene che nello stadio italiano del futuro si possa tornare anche ai posti in piedi? Ma vedi, quello è stato un processo lungo. L'Inghilterra è ritornata a pensare alla possibilità di avere dei posti in piedi, quindi diciamo con un prezzo inferiore, perché uno dei principi che hanno caratterizzato l'intervento del giudice Taylor per la sicurezza dell'impiantistica sportiva è stata anche quella di elevare il biglietto. Un biglietto minimo in Inghilterra oggi costa 30 sterline, che vorrebbe dire quasi 40 euro, quindi un prezzo il minimo, quindi un prezzo altissimo. Questo ovviamente hanno risolto il problema dell'uliganismo e a questo punto evidentemente si sentono tranquilli e sicuri che l'accesso e la vivibilità degli stadi e il grado di sicurezza rodato all'interno degli stadi dopo 18 anni di esercitazione non porti nessun tipo di problema a creare un nuovo settore di tifosi in piedi. Però è un processo lungo. Insomma, beati loro che hanno risolto gran parte dei loro problemi e si permettono e hanno la possibilità di tornare a disquisire, insomma, più della forma che della sostanza. Allora, Michele Uva, grazie per essere stato ospite a Bordo Campo. L'aspettiamo quindi per l'inaugurazione dello stadio della Juventus e chissà, magari anche di qualche altro nuovo impianto nostrano. Grazie a voi, anzi vi auguro che possiate venire anche ad aprile a Coverciano, dove sarà la terza e quarta sessione del nostro corso, perché i relatori, che sono tutti internazionali, penso che possano portare un contributo didattico e un contributo di idee che ci può permettere di capire quali saranno gli impianti indispensabili per il nostro futuro. A Bordo Campo. Quante volte ci ritroviamo a dire che il calcio e la sua fantasia non sono roba da computer e che il genio e il talento non possono essere espressi da quelli che sono i programmi severi e matematici di un PC. Però calcio e tecnologia possono essere declinati in tanti modi diversi. Vero Stefano Cigarini? Eh sì, è proprio così. Intanto buongiorno a te Dario e agli ascoltatori. Benvenuto a Bordo Campo, Stefano Cigarini. Perché lo chiamiamo in causa? Perché il dottor Cigarini è l'ideatore, il fondatore di un progetto che lega insieme calcio e web. Dico solo un nome, Kiko.it, piattaforma digitale online per scoprire, osservare e scrutare i nuovi talenti emergenti del calcio mondiale. Stefano, di che si tratta e come è nato questo progetto? Si tratta di questo, che il calcio, che ha ormai una veneranda età di oltre 100 anni, insomma, dall'origine la sua materia prima, ovvero i calciatori, li cerca ancora alla vecchia maniera, cioè ove possibile andando in giro per i campi a scovare talenti, oppure su segnalazione c'è uno bravo, vallo a vedere. Questo metodo però in un mondo globalizzato non fa trovare tanti calciatori, ne fa trovare pochi, limita il fatto che molte nazioni non sono rappresentate, molti calciatori non vengono visti all'età giusta, è un po' come le pere, se non sono prese quando sono mature poi passano. Di fatto quello che stiamo trasferendo sono informazioni. Noi di un calciatore guardiamo le performance, le azioni, la tecnica, come si muove, il controllo di palla, eccetera eccetera. Tutta questa roba oggi, invece che girare via fisica, invece che mandare degli omini in giro per il mondo a guardarli, può girare via web, via internet. E questa è esattamente l'idea di Kiko, una piattaforma video per giovani calciatori che possono essere visti, selezionati e contattati potenzialmente da tutte le squadre del mondo. Quindi si va su internet www.kiko.it, poi declinabile in tutte le sue versioni internazionali anche nelle diverse lingue, e qui c'è un menu che ti permette di scegliere il video del potenziale calciatore da osservare e poi chissà, magari contattare e acquistare, se ho capito bene. Esatto, allora Kiko è una piattaforma video per giovani calciatori ed è rivolta a ragazzi di qualsiasi età e livello e stato che credono di avere talento nel calcio, da un lato, e dall'altro lato a coloro che usano i calciatori per, come dire, fini professionali, quindi squadre di calcio, talent scout, osservatori eccetera eccetera. Se sono un calciatore io posso caricare i miei video, caricare una scheda ed essere visto, selezionato, opzionato e contattato dai club o dai professionisti. Se sono un professionista posso fare esattamente quello, vado a sfogliare tra i video, cerco i migliori, cerco quelli che rispondono alle mie esigenze, ho dei motori di ricerca molto raffinati per cui posso cercare per ruolo, per età, per stato, per regione, per un mix di cose, per caratteristiche particolari, ne cerco uno che ha un portiere bravo nelle uscite, per dire, no? Uno che ha il colpo di testa forte. Una volta che ho identificato i video che mi piacciono, me li posso guardare, scaricare, posso contattare direttamente dal sito i calciatori via mail, cellulare, o posso addirittura contattarli ai loro dati privati se c'è il consenso da parte di coloro che si sono iscritti. Posso addirittura opzionare i calciatori per un periodo, diciamo, a mia discrezionalità, ovvero immaginate il tipico caso che un osservatore di una squadra, dell'Udinese, vede un talento, è chiaro che deve farlo vedere poi al suo presidente, al suo direttore generale, allora lo opziona per un periodo, qualche giorno, una settimana eccetera, il calciatore non è contattabile da nessun altro e l'osservatore ha tutto il tempo di prendere le sue decisioni, poi i due si possono ovviamente incontrare direttamente, a quel punto negoziano il loro affare, la proprietà del calciatore, trasferimenti eccetera eccetera, lo fanno come si è sempre fatto finora. Ecco qua, infatti, allora, metodo innovativo che si interseca, si sovrappone, si integra con il metodo tradizionale dell'osservazione sul campo, e quindi voi tramite Kiko andate un po' anche a cavalcare l'onda di un fenomeno già in espansione, no? Già si è visto ogni tanto, letta come curiosità, del tal giocatore russo che mette il proprio curriculum su Facebook e poi trova squadra chissà in Serie A in Germania, in Francia. Perché vedi, c'è un grandissimo problema economico che è il seguente: le squadre di calcio, come tu sai e come diciamo è noto agli addetti ai lavori, sono delle aziende in realtà in profonda crisi, che presentano dei bilanci in rosso, e presentano dei bilanci in rosso perché c'è una voce che sballa tutti i bilanci, che è la cosiddetta voce salari e stipendi, sono i calciatori, nel Milan, nell'Inter, nel Juventus sono i calciatori. Questa voce così alta di costo è perché ci sono pochi calciatori di talento, quei pochi vengono, come dire, vengono giocati e rubati reciprocamente dalle squadre a suon di soldi. È evidente che se ci fosse una base di scelta molto più ampia il costo dei calciatori diminuirebbe. E la base di scelta molto più ampia la fai solo con uno strumento che permette di vedere non qualche migliaio, il Milan vede 30.000 calciatori l'anno, nel mondo giocano 500 miliardi di calciatori, diciamo pure che il 90% sono schiappe, ma stiamo parlando di, se stessimo, come dire, parlando di 500.000 calciatori, ci metterebbe 1.600 anni a vederli tutti, cioè una cifra, come dire, non proponibile. E quindi è chiaro che un metodo web che annulla tutti i costi di spostamento, trasferimento, trasferte, di rapporto, eccetera, eccetera, e crea una filiera diretta dal calciatore alla squadra, è molto molto più veloce ed efficace del metodo che si è sempre usato. Qualche osservazione, fammi fare l'avvocato del diavolo, ma non l'avvocato del Milan in questo caso. Tramite il web abbiamo conosciuto anche dei falsi straordinari, no? Faccio riferimento al video leggendario delle 10 traverse colpite da Ronaldinho, eccetera eccetera, ne vediamo di tutti i giorni. Ecco, Kiko è blindato rispetto a queste escamotage? Allora, Kiko è intrinsecamente blindato, nel senso che se voi andate a vedere sul sito, su Kiko.it o sulle sue varie versioni internazionali, voi vedrete che ogni calciatore ha caricato normalmente più video, più partite, in uno stesso video potrebbe aver caricato 10-15 partite di campionato, ovviamente prendendo gli spezzoni migliori. Quindi o questo qua è Spielberg e ha dietro una produzione ed effetti speciali clamorosi, o tendenzialmente i video sono realistici. Tenete presente ovviamente che il video e la scheda sono il primo approccio col calciatore, se poi mi piace gli dico mandami altra roba, fammi vedere, e insomma sul medio lungo non si riesce a barare. Il caso di Ronaldinho era ovviamente una trovata pubblicitaria. Insomma, anch'io magari potrei inventarmi un video con un paio di colpi di tacco, ma poi Kiko inevitabilmente rivelerebbe il fatto che, insomma, sì, il calciatore, perché, guarda, che non è il mio primo mestiere, ecco. Esatto, guarda, ti faccio un parallelo banalissimo, pensa per esempio a oggi questo metodo è usato tranquillamente per fare il casting delle modelle internazionali, è evidente che una modella in fotografia normalmente è un po' più bella che dal vivo, nel senso che la foto è, tra tutti i possibili milioni di scatti, è il check migliore che è stato fatto, no? Toccato, Photoshop, eccetera eccetera, ma è altrettanto evidente che un occhio professionale sa distinguere poi qual è realmente la modella rispetto al risultato finale, così vale per i video. È chiaro che io come ragazzo metto un video da 5 minuti in cui faccio vedere le cose migliori, se sono un portiere se ho fatto delle papere quelle le evito, ma è altrettanto evidente che l'osservatore professionale sa che quelle sono le cose migliori, in base a quello mi sa tarare come livello. livello e valore. C'è anche un altro rovescio della medaglia, cioè il giocatore che è convinto di essere forte e che invece è clamorosamente scarso, no? Chico abbonda anche di questi esempi, no? Diciamo. Ahimè, questo è vero, nel senso che il web è democratico, è trasparente e quindi nei, come dire, 6.000 e oltre 6.000 calciatori che già sono su Kick oggi e nei potenzialmente centinaia di migliaia che ci saranno in futuro, ovviamente ci sono tutti i livelli. Quello che Kiko fa per aiutare gli osservatori, i professionisti a non perdere tempo è che ogni video che viene caricato da un ragazzo, prima di essere pubblicato, è soggetto ad approvazione da parte di un team di osservatori interni che gli danno una valutazione da 1 a 3 stelle, dove sostanzialmente gli 1 sono quelli scarsi, 2 i medi, 3 i buoni, di modo che una prima macro scrematura è stata fatta e l'osservatore può impostare dei filtri quando va a fare le sue ricerche, scegliendo di vederli tutti, quelli medi o quelli forti. È chiaro che se sono la Juventus vado su quelli forti, ma se sono il Vatte la Pesca posso anche accontentarmi di quelli un po' più bassi. Detto ciò, il genitore che è convinto che il suo figlio sia un fenomeno mette il video, c'è sempre, quello è inevitabile. Dacci un'esclusiva, qualche affare già concluso grazie a Kiko? Quello che è successo è che un ragazzo albanese di buon talento, un giovane ragazzo albanese che quindi non aveva nessun accesso al mondo professionistico, diciamo, italiano, è stato contattato da una squadra di Serie A, la Lazio, per un provino, e questo è, devo dire, un primo grande risultato che il web rende possibile, che a livello di amicizie, conoscenze o di scouting fisico non sarebbe mai successo. E allora Stefano Cigarini, in bocca al lupo per l'avventura calcistica di Kiko.it. Ma toglici una curiosità, Stefano, tu ogni tanto allo stadio ci vai a vedere qualche partita dal vivo o vedi tutto su Kiko? Io preferisco vederla in televisione, però ogni tanto una capatina allo stadio la faccio. E beh, inevitabile deformazione professionale. Allora in bocca al lupo e grazie per essere stato nostro ospite a bordo campo. Grazie a voi, a presto. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il nostro blog sempre sulla pagina web di A Bordo Campo. L'appuntamento è per domenica prossima, come sempre alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.